Io non mi arrendo all'apatia. L'amore vero è una follia. Io non mi arrendo. Di ritrovare stella mia luna, la strada è lunga da traversare, quante ingiustizie da ripudiare. Andremo oltre ogni confine, a mani nude di fronte al sole. Tu hai le chiavi del mio cuore, a notte fonda lasciami entrare. Farfalle rosa nella penombra ci fanno vento, passi di danza. La strada è lunga da attraversare, quante ingiustizie da ripudiare. Andremo oltre ogni confine, di fronte al sole. Questo buio, la nostra luce, il nostro mondo. La strada è lunga da attraversare, ingiustizie da ripudiare. Andremo oltre ogni confine, a mani nude di fronte al sole.